Lettura dal romanzo di Claudio Antonio Bosco, La prima, ultima ora. Storia di un apprendista insegnante e della sua frontiera. Seneca Edizioni, Torino 2005. Dedica a mia moglie, che nei primi 20 anni del libero frullare d'ali del nostro sogno umano ha aperto con dolce impeto un varco nella rete d'argento che mi chiudeva all'altezza. Capitolo primo. Dall'ombra del portico qualcuno scrutava l'avanzare del postino. Il rettilineo d'asfalto spartiva per lungo tratto la campagna, che cominciava a tingersi dei colori dell'autunno. Come ogni struttura del cascinale degli avi, anche l'acciottolato parlava dell'inesorabile scorrere del tempo. Molte pietre, infatti, apparivano smosse. In alcuni punti erano addirittura mancanti. Su di esse la pressione del piede, attraverso la suola delle scarpette da tennis, si faceva massaggio benefico e accendeva ricordi. Da bambino, calzando galosce sempre troppo grandi, spesso aveva giocato a stare in bilico sulla loro convessità, con piccoli movimenti del piede d'appoggio, caricare il peso del corpo ora sulla gamba destra, ora sulla sinistra, provare e riprovare. Ogni pietra un pianetino. La sensazione fanciullesca di cadere nel vuoto dall'orlo dei mondi ritornava alla mente risalendo piano dal pozzo dei ricordi. L'acciottolato rustico non mostrava alcun disegno particolare. Lentamente riapparivano invece nella memoria pezzi della carta nautica dei fantastici viaggi interplanetari di un tempo. Vagando con lo sguardo sulle pareti scrostate a macchie, dai contorni vagamente geografici, gli veniva spontaneo assomigliare il gran portico alla navata laterale di un tempio incompiuto. La possente travatura in legno dell'altopiano era la carena dell'arca abbandonata che aveva accolto generazioni di uomini e donne, insieme a cose e animali. Durante l'adolescenza gli era parso che i possenti pilastri della facciata fossero sorretti dall'edera e dal melograno, nella palpitante oscurità delle notti estive. Ora, nudi e soli, esprimevano una stupita inutilità. Nel 64 la vasta tezza semivuota era risuonata dell'ultimo muggito dei bianchi buoi dalle corna serpentine di Barba Augusto. Ricordava di averli guidati avanti, orgoglioso, nei campi dietro casa, a tirare il vecchio carro cigolante colmo di fieno, con in mano il bastone di noce intagliato per lui dal nonno durante i filò dell'ultimo inverno. L'arrivo del primo trattore li aveva fatti sparire un mattino di febbraio, mentre in aula vergava d'inchiostro la sua prima letterina a nano lumino sul pigna a righe con la Liguria in copertina. Al tepore della stufa di terracotta che induceva ad appisolarsi sul banco di scuola nero Abissinia. Suoni e rumori sembravano imprigionati nel legname di sostegno al vasto tegolato e nelle crepe dei muri. Tra i mattoni smangiati in superficie dal succedersi di più di 500 stagioni, o sfarinati dal becchettio dei passeri e i sassi di fiume quasi spogli di malta giallastra. L'invocante miagolio dei micini rintanati tra paglia e fieno, e il tranquillo chiocciare delle gallinelle madri sotto la grea, il garrire delle rondini sfreccianti a primavera dentro e fuori dal grande riparo, e i vellutati voli notturni dei pipistrelli. Il tubare cupo delle tortore e il ritmo chioccolante delle quaglie del barbagino. Gli pareva di rivedere persino il ruzzare a corna abbassate delle caprette di zia Veronica. Il silenzio spesso e profumato, in cui cadeva la campagna nei meriggi prima dell'avvento dei motori, si associava di nuovo al rodio impercettibile dei cavalieri del Barbapiero, così candidi nel letto di foglie verde smeraldo. A lungo li aveva contemplati ogni volta al ritorno dall'avventura della spoliazione del gelso, dopo la vertigine dell'ascesa ai rami più alti e il gioco col fratello e i cuginetti a chi resisteva più a lungo nello spenzolarsi da quelli più bassi. Quant'erano dolci le bianche more. Staccare le foglie dai rami, facendo scorrere intorno ad essi la mano semiaperta, riempiva il palmo di frescura. Un lavorare spensierato. A colmare per primo il sacco di juta, un bottino frusciante leggero di cui me l'arvanto col nonno. Ma ecco, sopra ogni rumore, emergere il rauco abbaiare di Zort, uno splendido boxer. Unico ricordo tangibile era l'istantanea in bianco e nero di piccolo formato che conservava nel cassetto del comodino.